Radio Palma. Anita, dimmi che tutto adesso è come sembra, che la nostra vita è ritornata come prima. E se guardo fuori dalla finestra, il sole sta scaldando ancora il mondo mentre gira. E tu sei come quella melodia, perché ti ho sempre in testa notte e giorno e non vai via. Dimmi che nonostante tutto tu sei mia, che voglio dare un nome a tutta questa nostalgia. Questa notte chiama il vento, soffia la tua voce fino a qui, cantano.